America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. There's great interest in Comet Iceland for a couple of reasons. First of all, it's coming from the very edge of our solar system. So it still retains the primordial ices from which it formed 4.5 billion years ago. Beh, Don Yeomans è uno dei responsabili della NASA, anzi il responsabile degli oggetti che si avvicinano alla Terra, e dice c'è grande interesse attorno alla cometa Ison perché arriva dall'estremità del nostro sistema solare e quindi al suo interno contiene i materiali originari da cui si è formata 4,5 miliardi di anni fa. Inoltre, dice, ha viaggiato 5,5 milioni di anni per arrivare fino a noi e il giorno di Thanksgiving raggiungerà il punto più vicino al Sole. Ecco, oggi è Thanksgiving ed è un Thanksgiving, devo dire, molto particolare per due vicende. La prima riguarda questa cometa che il giorno di Thanksgiving raggiunge il punto più vicino nella sua orbita attorno al Sole, un'orbita, come ci ricordava Yeomans, che dura 5,5 milioni di anni. Ecco, non sappiamo bene quale sarà il destino poi di questa cometa, ci sono segnali di destabilizzazione, si teme che possa frantumarsi arrivando così vicina al Sole, ma gli astronomi, gli scienziati, i fisici la stanno seguendo con grandissimo interesse. Un ammasso di ghiaccio, di gas e polvere ha un diametro di circa 2 chilometri, è nata nella nube di Oort, la nube di Oort, pensate che nome evocativo, che è al confine estremo del nostro sistema solare. E dunque, insomma, gli americani che festeggiano questo Thanksgiving lo fanno così, con questa cometa. Non era mai successo prima, devo dire. Io, come molti di voi sanno, sono qui da molti anni, ma una cometa che capiti proprio nel giorno di Thanksgiving ancora non l'avevamo vista. Come non avevamo visto un altro fatto di cronaca che ha riportato improvvisamente in superficie dettagli di questa giornata del Thanksgiving, e cioè la vendita all'asta da Sotheby's di un libro, il Babe Psalm Book, un libro di salmi, che è stato il primo libro stampato in America nel 1640 ed è stato un libro commissionato proprio dai padri pellegrini. Padri pellegrini, i padri pellegrini sono quelli che sono arrivati sul Mayflower e che sbarcando ringraziarono immediatamente il Signore il 9 novembre del 1620 con il Salmo numero 100 al verso 4, dove si dice entra i suoi cancelli, dunque i cancelli del Signore, i cancelli del futuro, con ringraziamento. E da lì che poi ha preso corpo questa ricorrenza del Thanksgiving, che è una festa, devo dire, che riguarda tutti gli americani. Nonostante ci fosse una matrice, una radice religiosa, in realtà è diventata una festa molto laica. È una festa in cui si mangia il tacchino, gli americani si ritrovano a casa, una festa sentita allo stesso modo da tutti. Il Natale lo festeggiano i cattolici, lo festeggiano i cristiani, lo Yom Kippur gli ebrei, i musulmani, e pensate, solo a New York ce ne sono 600.000, festeggiano il Ramadan e così via e così via. Ebbene, il Thanksgiving è invece diventata la festa di tutti, dunque una grandissima e bellissima atmosfera. Ma torniamo al libro. Che cosa è successo? Che questo libro è rarissimo, perché ne sono rimaste soltanto 11 copie, era stato stampato in 1700 copie ed era stato commissionato proprio dai padri pellegrini perché non amavano una versione originaria che avevano di questo libro dei salmi ebraici, perché la traduzione alla corte di St. James, quindi la traduzione alla corte britannica, secondo loro non era adeguata. E quindi ci sono molti aspetti simbolici in questo libro. Il primo libro stampato in America, un libro di salmi che si distacca dall'interpretazione della Gran Bretagna, e un libro di cui oggi ne restano soltanto 11 copie, e che è stato battuto all'asta, vi dicevo, da Sotheby's a un prezzo complessivo di 14.165.000 dollari, ed è ufficialmente il libro più caro. E l'ha comprato David Rubenstein, che è un finanziere, il fondatore del Carlyle Group, il quale ha la passione, una grande passione per i libri, devo dire, questo rincuora nel momento in cui siamo nell'era del tempo reale, di internet. Tutti dicono che la carta andrà a morire. Pensate che lo stesso Rubinstein ha comprato la Magna Carta, una copia della Magna Carta, pagando 21 milioni di dollari nel 2007. E cosa farà di questo libro? Se lo tiene a casa? No, l'ha comprato perché potesse girare in esposizione in biblioteche e musei americani. Dunque un vero gesto di grande filantropia, un gesto di nuovo importante, perché poi il senso del Thanksgiving è anche quello della restituzione. L'America è grande in questo, ma anche del ricordo, perché partirono in 120, arrivarono d'inverno e dunque l'inverno fu durissimo. Pensate che più della metà morì di questi padri pellegrini, di questi fondatori dell'America, come ormai vengono riconosciuti da tutti. E dunque, quando a un certo punto, in un momento di preghiera, ricordando la loro partenza, uno dei loro leader, William Bradford, cercò di ricordare come lasciarono a luglio certezze, un posto bello dove vivevano agli Egi, dove si erano rifugiati, dove avevano vissuto per 12 anni, e lo fecero partendo, dice, come pellegrini, e si ispirò di nuovo a un riferimento biblico del Vecchio Testamento, il verso 11, 13, 16, sapevano di essere pellegrini, dice Bradford, e non pensarono molto a queste cose materiali, ma semplicemente alzarono i loro occhi al cielo e al loro futuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Una delle grandi tradizioni del Thanksgiving è la parata di Macy's a New York, in diretta in tutti gli Stati Uniti. Un sogno, la gente viene apposta per vederla, questi palloni enormi che rappresentano alcuni dei simboli dei cartoni animati o dei personaggi leggendari dei fumetti americani, che sono alti magari 10, 12, 15 piani, trascinati da questi carri coloratissimi. E dunque dei Green Day vi propongo Macy's Day Parade. Today's a Macy's Day Parade. Night of the living dead is on its way, with the credit report for duty call. It's a lifetime guarantee, stuffed in a coffin 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed to you. What's the consolation prize? Economy. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Happy Thanksgiving, goodbye, and get going.